Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Buongiorno. Stavo sbrinando il frigorifero, il congelatore, e inavvertitamente è scappato un cubetto di ghiaccio. Ci ho messo il piede sopra, sono scivolata e sono stata 40 giorni gessata. Metto tappeti e stracci per tutta la cucina, riempio tutta la cucina di tappeti e stracci in modo tale che non possa scivolare, non possa, anche se c'è un cubetto di ghiaccio che è scappato, io non possa prenderlo sotto i piedi. Buongiorno, il mio incidente domestico più frequente è stato, uscendo dalla doccia, scivolare sul bagno e farmi un male terribile. Buongiorno, ero sposetta, stavo passando la lucidatrice addirittura al bagno e nello sguardo che poteva esserci una goccia d'acqua sotto il tubo praticamente mi sono procurato un elettroshock. Sono cose che capitano, però capitano anche molto spesso. Questa mattina volevo farvi riflettere su un dato che in sé, se non fosse così tragico e doloroso, comunque l'esito di quello di cui parliamo farebbe quasi sorridere. Noi abbiamo in testa le nostre preoccupazioni, il fatto che ci possano giustamente entrare in casa e scassinare casa, che arrivino persone e ci portino via lo spazio vitale, e che può succederci qualsiasi disastro di tipo economico, ma in realtà noi ci facciamo veramente male con le nostre stesse mani. Ho raccolto qualche articolo proprio di questi ultimi giorni, ultime settimane, anche se è un argomento che abbiamo già trattato più volte, quello degli incidenti domestici. Vorrei farvi riflettere sul fatto che in realtà il peggior dolore possibile, la maggiore incidenza di infortuni che noi ci procuriamo, ce li procuriamo con le nostre mani dentro le mura accoglienti di casa nostra, per distrazione, imperizia, incapacità di gestire alcune banalissime operazioni. Già l'aveva detto l'Istat quando diceva che l'11,3% della popolazione comunque aveva dichiarato ai suoi ricercatori di essere stata vittima di incidenti domestici. Ma io sto vedendo rassegne di giornali regionali, da ogni città c'è questo sommesso, probabilmente non rilevante nei grandi titoli, nelle prime pagine, però allarme sulla nostra incapacità di gestire in maniera da rimanere incolumi le operazioni domestiche. A Bologna, incidenti domestici, 4 bolognesi su 10 ammettono distrazioni. Napoli pure, a Napoli incidenti domestici, campani sottovalutano i pericoli. Poi anche a Torino la stessa cosa, a Torino c'è stata un'indagine portata avanti da una compagnia assicuratrice in cui viene anche lì fuori dei dati terrificanti. Ma come accadono, quando accadono questi 4,5 milioni di incidenti domestici che avverrebbero ogni anno nelle case italiane? Ma prevalentemente abbiamo già analizzato il problema, per distrazione. Salite su una sedia, perdete l'equilibrio, cadete e vi schiantate. Aprite il frigorifero come la signora, vi cade un cubetto di ghiaccio, scivolate e vi fate male. Andate ad aggiustare qualcosa senza essere capaci di aggiustarlo, vi tagliate, fate il bricolage domestico, comprate seghetti multipli, trapani fotonici, vi fate male perché non è quello il vostro mestiere. Poi andando avanti sono infinite le ragioni per cui ci si possa far male in casa. Quindi questa mattina volevo rilanciare la sfida ai nostri ascoltatori, che l'altra volta erano stati così bravi ad elencarmi l'originale incidente domestico. Vorrei capire esattamente come vi siete fatti male dentro casa, qual è stato il motivo per cui siete entrati nelle classifiche, nelle statistiche dell'Istat, nel novero degli italiani che si fanno male con le loro stesse mani. 800 24 00 24, a tra poco. Melog. Cronache meridiane. Il 40% delle casalinghe viene colpito da incidenti domestici. Gli elementi che possono diventare pericolosi sono fuoco, elettricità, acqua e gas. Per ridurre il rischio di folgorazione è indispensabile installare nel proprio impianto il salvavita e la messa a terra per disperdere la tensione elettrica. Rivolgersi ad un tecnico per ogni manutenzione straordinaria dell'impianto elettrico, pretendendo la consegna della dichiarazione di conformità e gli allegati. Non usare mai gli elettrodomestici quando si è bagnati o a piedi nudi. Il gas può causare intossicazioni ed esplosioni. Si possono verificare fughe di gas metano, molto infiammabile ma riconoscibile dall'odore caratteristico. Oppure apparecchiature difettose possono possono sprigionare un gas tossico, l'ossido di carbonio, inodore e incolore. Causa mal di testa, vertigini, nausea e sonnolenza. Proprio riguardo alle fughe di gas, mi scrive su via SMS un ascoltatore che una volta ha avuto una fuga di gas organica, non so se volontaria o involontaria, accanto alla fiamma del gas, e c'è stata naturalmente, come è logico, come sanno tutti i ragazzi che hanno fatto questo scherzo, questo sceno giochetto, c'è stata una fiammata con ritorno di fiamma e conseguente ustione alla parte interessata del nostro signore. Mi scrive un altro ascoltatore: Nicoletti, questo è un argomento da minusavez, come da cretino, come per dire. Sì, è un argomento da cretini, fa capire quanto siamo cretini quando mettiamo le mani nel modo sbagliato in suppellettili, oggetti, mobilio, attrezzature familiari che sembrano fatte apposta per salvaguardare la nostra serenità, la nostra tranquillità, la nostra sicurezza. Molte volte invece diventano al contrario degli oggetti contundenti, molto pericolosi. L'incidente domestico in sé ha una sua dinamica ben precisa, anche se le statistiche dicono che i più colpiti sono naturalmente le categorie deboli, gli anziani che mettono le mani dove non dovrebbero metterle, che hanno un abbassamento delle loro capacità sensoriali di controllo, la loro forza, si avventurano in operazioni in casa che non dovrebbero fare loro, salgono sulle sedie per pulire le finestre. Io ricordo vivissimo di un'inquilina di casa mia all'ultimo piano, una signora abbastanza avanti negli anni, e io la vedevo la mattina salire sul davanzale della finestra per pulire bene i vetri, che si vivessero bene. Sì, questa anziana signora in bilico su un davanzale, ecco, quella era una probabile vittima di un incidente domestico. Grazie a Dio non è successo nulla. Molte volte accade semplicemente per situazioni che nemmeno noi abbiamo il sentore che possono essere per noi letali, e lo diventano. Un momento lo diventano, rimaniamo frustrati perché non ci sembra possibile che siamo stati così sciocchi. Appunto, minus avens, come dice Bruno. Susanna, buongiorno. Buongiorno. Il suo incidente domestico? La sento poco. Ho spento la radio. Sì, adesso elenchi i suoi incidenti domestici. Noi la sentiamo bene. La radio ce l'ha accesa perché sento, allora, il rimbombo. Io il 22 dicembre dell'anno scorso, quindi è passato da poco un anno, a mezzanotte ho deciso di finire l'albero di Natale. Dopo tutto un giorno di lavoro sono salita su una scaletta bassa e con i tacchi alti, non mi sono neanche tolta le scarpe. Questa è una disattenzione grave però. Sì, molto grave. Stavo comoda, erano scarpe comodissime che usavo anche per lavorare. Quindi salita sulla scaletta col tacco a spillo? Sì, praticamente non proprio a spillo, ma insomma. Ma coi tacchi? Con i tacchi sono scivolata dal secondo gradino, mi sono rotta tibia, perone e malleoli, con frattura scomposta ed esposta. Quindi ha passato un bel Natale. Lei cosa doveva mettere? Doveva mettere il puntale sull'albero di Natale? Volevo finire l'albero. Ma viene da ridere, perché fa ridere questa cosa? Ma la trova faccia. Cioè, a posteriori fa ridere. Mi spieghi la psicologia della vittima di incidente domestico? Lì per lì è una tragedia. Allora, io ero tranquillissima, non ero affatto stanca, nonostante fossi stata tutto il giorno a lavorare, ero andata anche a cena fuori. Aveva bevuto? Come? Aveva bevuto? No, ero tranquilla, tornata a casa verso le 11, ho deciso di finire l'albero perché era il 22 dicembre. È anche un po' tardi rispetto alla tradizione. Ecco, e per finire l'albero l'ho finita così. La mattina, la sera, durante la notte ho dovuto avvisare al lavoro che il giorno dopo non sarei andata. Ma come faceva? Trascinandosi praticamente con le fratture esposte fino al telefono, come ha fatto? No, io sono stata portata con l'ambulanza all'ospedale. Ah, quindi poi è una cosa grave. No, certo. Solo una domanda ancora, poi lascio certo, Susanna. Sono stata un mese all'ospedale. Com'è a posteriori lei ci sorride di questa cosa? Le sembra una cosa che faccia quasi ridere? Penso che sia stata un'avventura dolorosa. Sì, il mio racconto, perché appunto sapendo che giornata era stata di lavoro in un negozio il 22 dicembre, tutti mi hanno detto, ma come tu a mezzanotte ti eri anche messa a finire l'albero di Natale? Sì, volevo concludere per lavorare il 23 e il 24 senza pure questo piccolo pensiero. Allora vediamo, lei ci è stata utile, Susanna, per far capire quelle che sono le dinamiche dell'incidente domestico. Molte volte si fa qualcosa senza pensarci, un gesto apparentemente irrazionale, tornare a casa dopo una cena stanca, con i tacchi, salire sulla scala per finire l'albero, è fatale, una disattenzione che è stata fatale. Sentiamo Susanna. Susanna, abbiamo parlato. Francesca. Cosa io davo una soluzione, perché è capitato a me girando l'arrosto, oppure facendo patate arrosto, insomma cose che c'è l'olio e può qualcosa di l'incidente bagnato. Con l'arrosto, che incidente provoca? E invece mio figlio ha una grigliata. No, ma che con l'arrosto, come fa a farsi male con un arrosto, per capire? No, perché uno aggiunge, allora, mette l'arrosto nell'olio, nel burro, poi lo gira e l'arrosto è bagnato, schizza. E mi ha schizzato nell'occhio. Ah, lo schizzo d'olio bollente. Dell'olio bollente, per fortuna non sono stata poi dall'oculista, niente di grave, ma comunque ha visto qualche piccola. Poteva andare peggio, però. Poteva andare molto peggio. E a mio figlio è capitato invece una grigliata con amici, un pezzettino di brace, la stessa cosa, siamo corsi tutti e due, prima uno poi l'altro, dall'oculista. Quindi dei quattro elementi, elettricità, gas, acqua e fuoco, che possono essere origine di incidente domestico, lei da olio bollente ha detto olio bollente, tizzone acceso, sono due elementi pericolosissimi. Grazie. Paolo, buongiorno. Buongiorno. A me sono capitati due fatti praticamente. Una volta ho dovuto tappare un buco perché c'era l'aria condizionata che era stata messa e c'era rimasto uno spiffero, per cui mi è successo con la schiuma edile. Praticamente io già l'avevo usata. Ma lei fa il muratore, il carpentiere? No, è per risparmiare, chiamare qualcuno. Ecco, lei ha voluto fare un lavoretto da umarelli in casa senza essere capace? L'avevo già fatto e lo sapevo fare. Però evidentemente sono stato, diciamo, per la fretta e non ho visto che il beccuccio, siccome già l'avevo fatto, si era ostruito. Andava sturato con un chiodino prima di riporlo. È scoppiato. È scoppiato proprio. Gli è scoppiato il flacone della schiuma. È scoppiato il beccuccio, però è uguale. Il risultato è stato che mi sono andato a finire due palline di schiuma edile sulle guance. E mi è andata bene, un miracolo, perché se fosse andata negli occhi, quella è come cemento. Per cui io per la fretta e per risparmiare. Quindi un altro motivo, vediamo di elencare, diamo delle istruzioni. Un altro motivo di incidente domestico è un pochino la micragna di voler risparmiare per non chiamare un tecnico specializzato. Da lei da solo mette la schiuma edile, le esplode il beccuccio e rischia di essere sfregiato. Cieco più che altro. Cecato. E poi invece l'altro incidente? L'altro incidente mi è venuto in mente mentre ero in attesa, praticamente la stessa cosa. Si era otturato il gabinetto, ma di brutto proprio. Provato prima a buttare l'acido, quello lì, nelle bottiglie, niente. Allora, sempre per la fretta e sempre per risparmiare, ne ho comprata un'altra e ce l'ho messa tutta. Il problema è che non andava messa tutta. Lì ho proprio sbagliato io. Ha schizzato acido. Quindi c'è stato uno strabocco di schiuma e di acido che ha invaso il bagno. Quindi ho dovuto asciugare e pulire tutto. È stata una cosa, io infatti lo dico in radio perché voglio anche lanciare il messaggio di stare attenti. Certo, lanciamo un messaggio civile. Attenzione, se sottura il bagno non buttateci l'acido tutto assieme. Ma il fatto è che siccome è liquido, quando lo butti fa un vapore, per cui è tutta una cosa di un secondo, devi essere veramente... Rischi anche di essere soffocato perché sono vapori velenosi. Per pulirlo nel bagno è stata una cosa devastante, perché mandava un odore terribile, ho dovuto creare una corrente d'aria, mi sono mezzo intossicato, per fortuna non mi è successo niente. Quindi si era costruito una camera gas. Guardi, le dico solo, le fughe delle mattonelle... dove si era allagato sono diventate bianchissime, per farle capire il corrosivo. Quindi ma attenzione, quando maneggia l'acido, maneggiarlo con gli occhiali, i guanti, con tutto. Ma guardi, uno dovrebbe avere più calma e più soldi. Purtroppo ho avuto delle esperienze anche di chiamare tecnici specializzati che chiedevano tanti soldi, per cui alla fine uno cerca di risolvere così, però insomma, ecco, bisogna vedere poi alla fine se ne vale la pena. Ecco, io volevo lanciare questo messaggio: schiuma edile e acido, teniamoci un po' lontani, ecco. Va bene, questo è importante. Sentiamo Paola, altro tipo di incidente domestico. Basta chiedere, è statisticamente provato che l'incidente domestico è la causa maggiore dei nostri dolori, se togliamo anche dolori di tipo interiore, che in realtà quelli sono imprevedibili. Paola. Eccomi. Allora, io ne ho avuti svariati, però vi racconto il primo. Io ero una bambina, avevo circa tra i 6 e i 7 anni, adesso ne ho 49, quindi insomma è passato un po' di tempo. Ero estasiata di fronte al forno nel quale mia madre faceva cuocere i tortellini alla panna, che facevano quella bella crosticina. Ma i tortellini dentro il forno? No, scusi, non sono molto, ma i tortellini non si fanno dentro il forno? No, perché mia mamma li ha sempre fatti così, cioè li faceva e poi li passava in forno. Li ripassava in forno. Per fargli venire quella crosticina dorata, bella, no? E siccome era uno dei miei piatti preferiti, io li guardavo. È un pasticcio, veniva fuori. Di fronte al forno. Se non che contestualmente c'era una pentola d'acqua che bolliva sul gas, no? Sul fornello. Sì. Questa pentola ha tracimato, era evidentemente troppo piena, io sono stata investita dall'acqua bollente. Il risultato è che ho avuto un ustione, adesso non mi ricordo più il grado, ma abbastanza grave sul piede, e ancora adesso che appunto 49 anni, quindi sono passati quei 43 anni. Al piede anni, è deturpato circa, naturalmente. Ho il piede, sì, bruciato. Ma io mi ricordo all'elementare avevo un bambino, il mio compagno di classe, aveva tutta la faccia bruciata, lo chiamavano faccia bruciata proprio perché erano anni molto spietati. E era successo, come succedeva spesso nelle case in quegli anni, per come erano fatte le cucine, c'erano le cucine economiche, si è rovesciato la pentola d'acqua bollente in faccia e è rimasto appunto faccia bruciata. C'è Paola, ma aspettiamo un attimo perché dobbiamo dare la linea, ci sentiamo fra un istante. 800 24 00 24, oggi elenchiamo crudamente gli incidenti domestici per far capire al mondo che la casa è la vera fucina dei nostri dispiaceri. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Melog, cronache meridiane. Gli incidenti domestici sono, sembra, quasi ne parlano poco, ma purtroppo succede anche questo, negli incidenti elettrodomestici, perché ormai la cucina è talmente tanto elettricizzata, ormai abbiamo lavapiatti, abbiamo cucine automatiche, abbiamo impastatrici, abbiamo tante cose, che purtroppo bisogna stare molto attenti anche su questo. Io direi a tutte le massaie di avere sempre un occhio di riguardo, non dare troppo confidenza, sia del ferro da stiro elettrico, fra questo, perché ormai la casa è oberata da tutte queste macchine elettroniche. Questo era Giovanni Rana, anche lui colpito da incidenti domestici. Non dovrei dargli spago o esistenza, ma chissà perché c'è un ascoltatore, Saputello, che sta continuando a mandare sms dicendo questa puntata è registrata. Dice: Nicoletti registrato, invita a chiamare in trasmissione. Una puntata che una replica, ormai una barzelletta. Oramai che? Barzelletta che? Replica che? Sto parlando in diretta in questo momento, tanto che leggo il suo idiota sms. Alessandro, buongiorno. Sì, buongiorno, confermo che è in diretta la trasmissione, confermo. Sì, buongiorno. No, ma che sono tutti diventati Saputelli adesso, dei meccanismi occulti con cui si fa una trasmissione. Come si dice, non voglio essere ripetitivo e fare voi comuni, ma la mamma dei cretini. No, ma però siamo qui anche per dare esatta misura di quello che è il livello di cretinaggine nazionale, e quindi lo fanno molto bene anche molti miei colleghi, anche noi nel nostro piccolo intanto lo facciamo. Io ascolto anche molto la Zanzara, vabbè, va bene. Quindi quando riesco questi ritagli qua di tempo, però andiamo al punto, io trovo sia importante. Okay. Questo è un argomento che ho già toccato altre volte, è vero, l'ho fatto 6 anni fa, l'ho rifatto anche qualche mese fa, però mi interessa, a me non dico diverte perché sarei sadico se lo dicessi, interessa capire le molteplici maniere che abbiamo per farci male, ma perché le faccio raccontare? Non perché voglio i casi come fosse quei filmati che mandano in televisione, che fanno vedere risatissima e fanno vedere le persone che si fanno male, no, perché devo capire dietro il comportamento. Comunque secondo me è possibile individuare delle categorie, una l'abbiamo vista, chi vuol risparmiare, fare lavori in casa e vuol risparmiare non è capace, è logico che si fa male, chi fa le cose con disattenzione, attenzione, nel momento sbagliato, tornare a casa quando si è stanchi e salire su una scala non è proprio forse la maniera giusta. Cerchiamo di capire se troviamo dei comportamenti preventivi all'incidente domestico. Alessandro, allora sentiamo lei. Ecco, questa è la mia, io non so se chiamarlo incidente domestico, davvero sfiga nera. Sta di fatto che io dovevo incollare adesso non mi ricordo se era un porcellano o qualcosa, usando il Super Attack, quindi quello potentissimo, che era già stato usato, al che ho preso, poi hanno il difetto questi pubblicini qua di topparsi facilmente. Ma tutte le colle più o meno rimangono, bisognerebbe infilarci dentro sempre un chiodino, qualcosa. Esatto, sempre. Io quello ho fatto, ho infilato dentro un ago da cucito, stupidamente quando l'ho premuto l'ho guardato e esattamente lo spruzzo mi è andato in un occhio, nell'occhio destro. È andata bene che non è andato anche l'ago, che non ha sparato fuori anche l'ago. No, l'ago non c'era, io ho tolto l'ago, schiacciavo ma non usciva. E lei andava a vedere dentro come mai non usciva l'attacco? No, sono quelle reazioni, non lo so, istintive, che lo si rivolge. Sono i momenti, guardi, molto semplicemente, quando ero piccolo siamo in momenti di coglioneria che capitano a tutti. Sì, perché uno a vedere dentro perché non esce la colla gli arriva nell'occhio. No, cioè io non è che mi ho avvicinato l'occhio, attenzione, perché non ho avvicinato l'occhio al beccuccio, perché guardi che le posso assicurare che c'erano 30-40 centimetri di distanza, per quello che è stata una cosa io credo anche incredibile ma fantastica allo stesso modo, perché sono riuscito a centrarmi l'occhio, al che poi ero a casa da solo, però poi è andata anche bene, cioè è andata di sfiga sta cosa, poi è andata anche bene perché poi io chiaramente mi sono spaventato, ho capito la gravità della cosa, sono sceso, questo è successo una decina di anni fa, sono sceso giù da casa. In quella è arrivato mio fratello, perché ero anche senza auto, se no avrei preso la macchina e sarei andato all'ospedale. Mi ha portato al pronto soccorso e devo dire che al pronto soccorso mi è andata bene, perché ho trovato della gente stupenda, preparatissima, che mi ha salvato l'occhio. Comunque si può salvare l'occhio, una circostanza. Allora, attenzione anche con le colle, quelle molto tenaci, quelle importanti, quelle che sigillano tutto. Quando le riaprite, naturalmente state attenti, perché la colla rimane compressa dentro, si fa un piccolo tappo di colla solidificata al tubetto e quando spara fuori il tappo esce fuori veloce, e se l'è preso lo schizzo nell'occhio il nostro ascoltatore Nazareno. Io, ciao, buongiorno. Buongiorno, grazie della vostra trasmissione. È una trasmissione che può salvarti la vita. Vero. Ho 75 anni, ho avuto un'esperienza con mamma e con mia moglie. Con mamma, vi parlo 10 anni fa, mamma di sera sentivo un gocciolino sotto il lavandino. Allora lei che fece? Con quelle piccole abajou. Prese l'abajur dal comodino con il filo attaccato. Andò, no, no, col filo attaccato. Andò a illuminare sotto il lavandino. E andò sotto il lavello, nel toccare l'acqua, prese una scarica. Si è fulminata, elettrica. Si è fulminata. Beh, logico, succede. No, per fortuna abitavamo nello stesso, sullo stesso stabile, io stavo di sotto ed ero, stavo nel campo sanitario, manca un po' alla posta, era un tecnico di anestesia e rianimazione. La sentì cadere per terra, batteva i piedi perché prendeva la cosa e si era attaccata. Aveva delle convulsioni da scossa elettrica. La scossa elettrica. Proprio sbatteva così sul pavimento. Sì, sentivo battere, corsi sopra subito e... Per fortuna. Una brutta scena, comunque, una brutta scena era quello che ha visto, no? Sì, io la vedevo proprio a parte che mi ha. E lei cosa ha fatto? È andata a prenderla con le mani, no? Sì, e continuava a tenere il lume in mano. E ci credo, è rimasta attaccata. È rimasta attaccata con il lume in mano. Ma anche lei se tocca la mamma elettrificata, prende anche la lei. Mano nell'acqua. Prende la scossa anche lei, però, se la tocca. Non l'ha preso anche lei? Vi prego, io ero nel campo sanitario, sapevo. Ah, sapevo. Allora attaccai subito la corrente e l'ho dovuto rianimare. Da un lato è stato anche un beneficio, perché gli è stato corretto la fibrillazione atriale. Ah, quindi sei guarita la fibrillazione per questa cosa? Sì. Quindi ha fatto una specie di elettroshock cardiaco che la gioca. Esatto. Però non provateci, perché può andare bene una volta e non sempre. Grazie, una grande e importante testimonianza. Antonio, che le è successo? Pronto? No, scusi, mi viene da ridere solo a leggere, già ho letto. Antonio, cosa le è successo, Antonio? Ah, niente, un po' di anni fa io facevo i turni in un'azienda, mi accingevo a fare il turno dalle 14 alle 22. Sì. E niente, ero tranquillo in cucina, poi alla fine ho pranzato, mi sono preparato il caffè come al solito e poi inavvertitamente, non so cosa è successo, ho preso il coperchio della cucina, l'ho appoggiato sopra, che era pulito, ho detto mi lascio tutto sempre pulito, e invece dopo un po' vado in camera, mi cambio eccetera, arrivo in cucina, un botto della Madonna. Avevo lasciato la fiammella accesa inavvertitamente e mi è scoppiato il vetro che va sulla cucina. Ma è scoppiato con lei vicino, no? Spero. Sì, con me vicino. Quindi è stato colpito da schegge di vetro. Avevo gli abiti pesanti e mi sono riparato. Si è salvato. Però nel medesimo tempo vetro dappertutto, perché poi quel vetro lì è talmente fine che ancora adesso trovo qualche pezzettino. Pensa. Quindi esplosione di coperchio della cucina a gas. Al caldo, l'avvertitamento, ho lasciato il gas. Attenzione quando si lascia il gas acceso, poi è sempre un problema. Giovanna. Eccomi. Allora, Giovanni Lana è un uomo saggio comunque, il mio caso rientra non nel caso degli elettrodomestici, non dare confidenza agli elettrodomestici in cucina, ma non dare confidenza ai compagni in cucina, è qualcosa di una trentina di anni fa, io ho 48 anni e riguarda i miei genitori, mio papà ama il giardinaggio. Era una fanciulla in fiore allora, 18 anni aveva. Sì. Ero all'università, infatti poi quando sono rientrato ho trovato il dramma familiare. Sì. Mio papà ha dato, appassionato di giardinaggio, ha dato dei fiori di magnolia a mia mamma per friggerli, perché ha detto sono buoni quelli di zucca, saranno buoni quelli di magnolia. I fiori di magnolia, la magnolia, quel fiore bianco magnolia. Grande, quello che si vede nel giardino. Profumato, sì. Ma coniugalmente si mangiasse la magnolia? E mia mamma li ha fritti, mia mamma che all'epoca aveva la stessa età che ho io adesso, insomma, quindi non una vecchia signora rimbecillita. Quindi ancora non rincoglionita? No, esatto, non ancora ricordo. Era perché l'ha fatto? Un gesto d'amore? Perché l'ha fatto? Non lo so, infatti è quello che dicevo, rientra nel mio caso, rientra nella categoria non date confidenza al compagno in cucina. Cioè lei l'ha impastellato il fiore di magnolia, che poi è grosso. Sì, è grosso, sì, e l'ha fritto, li ha fritti. E poi hanno iniziato con questa cosa, assaggialo tu, l'ha assaggiato mia mamma. Era amarissimo, ha iniziato a tossire. Io sono rientrata a casa e mi sono trovata in mezzo a questo dramma familiare. A quel punto abbiamo contattato l'ospedale. L'avete portata a fare la lavanda gastrica, minimo. No, non è stato necessario. Abbiamo sentito, allora, mi hanno dato dei numeri, era 30 anni fa, quindi internet a casa non c'era. Abbiamo sentito, loro hanno sentito il centro antiveleni di Milano e noi quello di Roma. Però la cosa più imbarazzante è stata parlare con i responsabili del centro antiveleni. Ma come gliel'avete spiegato? Perché scusi, un bambino che mangia un fiore... Esatto, no, è così. Perché l'esperto mi chiedeva al telefono come ha fatto sua mamma a ingerire un fiore di magnolia. Io, sa com'è? Mio papà girava per il giardino, ha preso il fiore, l'ha fritto. Sono traumi. Poi non è successo nulla. Mi han detto di darle del latte e di portarla lì al pronto soccorso se fosse peggiorata. Perché in realtà non c'è casistica, o perlomeno non c'era anni fa, sui fiori di magnolia, c'era sui semi. I semi sono tossici, i fiori. Comunque è sopravvissuta. Rimane questo dramma nell'equilibrio coniugale dei suoi genitori. Come mai suo padre un giorno venne in mente questa cosa? Due ipotesi sono. L'uno fu un rapimento romantico, vide la magnolia così bella, carnosa, sensuale e ebbe desiderio improvviso di condividerla con la moglie sperando in un effetto afrodisiaco. L'altro era perfettamente informato sul fatto che la magnola fosse tossica e voleva uccidere sua madre. Valuti lei poi qual è delle due la versione che segnerà maggiormente la sua esistenza. A tra poco. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta Melog, cronache meridiane. Alimenti umidi, se messi a contatto con grasso bollente, provocano uno scoppiettio con schizzi di elevata temperatura. Si raccomanda di non ricorrere mai a liquidi infiammabili per accendere un fuoco. La fiammata potrebbe investire l'incauto fuochista. Fuochi liberi, ma anche stufette a gas, a cherosene o a incandescenza richiedono prudenza e attenzione. Una scintilla è sufficiente a provocare un incendio. .00240024, ci stiamo addentrando nella zona più oscura dell'incidente domestico, l'incidente domestico da occultamento. Anita, buongiorno. Gianluca. Cosa le è successo? Allora, io ho avuto un incidente un annetto fa. Praticamente io posseggo un letto a cassettone. Allora mi era caduto. Aspetti, qualcosa. A cassettone è quello che dentro si apre. Quello che si alza la molla col materasso e poi sotto c'è lo spazio per mettere lenzuolo, oggetti. Sì, qualsiasi amanti cosa. Nascosti, quello che vuole ci può mettere. Quello che uno vuole. E lei cosa ci ha messo? Io praticamente c'ho un po' di tutto, perché non ho una casa molto grande. Vabbè, serve apposta. Quello letto. Spazio utilissimo. Un letto dispositivo. La molla la alzo molto spesso. Va bene, insomma, quel giorno mi era caduto qualcosa dal lato della spalliera, proprio al centro. Allora che cosa ho fatto? Ho alzato la molla, poi sono andata in fondo, mi sono inginocchiata in fondo dal lato della spalliera, ho allungato la mano destra tutta quanta fino ad arrivare al centro e l'altra mano l'ho molto intelligentemente appoggiata sul materasso e quindi sulla molla. Praticamente sono rimasta con la mano chiusa tra il letto e la, insomma, tra la molla e la... Cioè il tipico incidente di Fantozzi, con la mano stritolata dentro la molla del letto. Esattamente, veramente stritolata. Fa male, non sì. Non c'era manco un millimetro di spazio. Ecco, ma a quel punto lei era sola in casa? No, l'unica fortuna, ah, ecco, che mia figlia non dorme con me. Se no rimaneva lì mezza giornata finché non tornava qualcuno. Veramente, io non, quando ci penso mi vengono i brividi, perché... Certo. Sarei potuta anche morire, già vedo i titoli, prigioniera di un letto a molla, è terribile. No, sono veramente pericolosissimi, bisogna stare molto attenti, è importante non metterci quindi le mani dentro. Meno male che c'era lei, ho cominciato a gridare, lei dormiva in una stanza lontano da me, è arrivata con una forza possente, invece di alzare la molla ha alzato il materasso, poi ha tirato sulla molla, io ho potuto tirare la mano fuori, fortunatamente mi aveva preso sull'osso. Quello che rimaneva della mano orrendamente no, stritolata. La prima cosa che ho fatto ho mosso le dita, quindi come ho visto che le dita si muovevano tranquillamente, ha tirato un sospiro di sollievo. Mi sono stesa a terra, ho detto a mia figlia prendimi il ghiaccio, lei mi ha portato un totano congelato e a questo punto ma perché messo... nel freezer c'era soltanto il totano, non c'erano i cubetti perché il ghiaccio era nascosto da altre cose. In quel caso si infila la mano nella bocca del pesce per ghiacciarla bene. Sì. Comunque adesso rido, ma io se penso a quel momento, se fossi stata sola sarebbe stata veramente tragica. Magari la trovavano dopo settimane. Non la potevo incastrata senza un millimetro di spazio. Ma pensi che tragedia se dopo mesi la trovavano mummificata con la mano infilata? Forse sì. Poteva succedere, gli è andata bene. Gli è andata benissimo. Sentiamo invece Nunzio, cosa è successo? Ah no, Nunzio. Buongiorno, sì, Nunzio. Nicoletti. Sì, Nunzio. Sono qui. Che ha combinato? Niente, io quando ero piccolo avrò avuto 4-5 anni, sa quelle forbicine, quelle da bambini con i manici rosa? Sì, quelle finte, tagliare la carta. No, quelle finte erano, all'epoca non c'era tutta questa cura, erano belle affilate. Per caso io ricordo, stavamo tagliando in cucina, io ricordo questo filo bello grosso del frigorifero. Sono andato con queste forbicine e ho tagliato il filo del frigorifero. Io ricordo. No, aspetta, c'è una comunicazione di servizio, mi scrive un SMS, non posso non leggerlo. Servi dei vaticanisti, dei testimoni di Geova, del Mossad, dell'ISIS, sono un terrorista islamico. Io sarei il terrorista islamico. Tranquillizzati. No, dico, divertente che l'incidente domestico, viene fuori anche l'incidente domestico della follia di chi tante volte scrive SMS. Prego, vada avanti. Col suo incidente. Caro Nicoletti, vabbè, con le sue vocazione sì, certo, sono qui apposta. Con le sue forbicine cosa ha combinato? Ho tagliato il filo del frigorifero, sono saltato dietro, ha preso volato. Ha volato poi un bambino, è volato preso dalla scossa elettrica. Sono volato, ho fatto un bel volo, quindi le forbici, a me non è successo niente, si è bruciata la forbice, la parte elettrica, per fortuna che c'era la parte di plastica che mi ha salvato. Gli ha salvato la manina, sennò si bruciava, si carbonizzava la manina. Io vorrei dire soltanto una cosa, io un incidente che oggi che è successo a una mia amica è la cicca della sigaretta, anzi la polvere della sigaretta quando era sul motorino dal signore che è il classico cafone che tiene il braccio fuori. E quindi? Ragazzi, non fatelo perché lei ci ha perso l'occhio. Ah, è stata accecata. Una micro polverina di cenere bollente, calda, è volata, è andata nel suo occhio e le ha bruciato l'occhio. Questo non è proprio un incidente domestico, però è un incidente originale. Allora, originale, ma ha una grande casistica. Allora, chi butta via la cenere della propria sigaretta dal finestrino, sappia che c'è un motorino dietro, gli entra nell'occhio, perde l'occhio. Questa è una cosa interessante perché dovrebbe portare a una maggiore consapevolezza. Valeria. Pronto? Valeria, qual è il suo incidente? Pronto, buongiorno. Allora, io non ho per fortuna avuto l'incidente domestico, ma l'abbiamo rischiato molte, molte volte, io e mio marito, perché in una casa in affitto avevamo i fornelli con le piastre elettriche. Non so in quante case ancora in Italia ci siano le piastre elettriche, però non essendo abituati ad utilizzarle, spesso... Rimangono accese. Sì, ci comportavamo come con i fornelli. Il fornello a gas, tu vedi la fiamma, se accesa la vedi e quando spegni. Quella si arroventa e basta, uno ci mette una mano sopra e si ustia. Esatto, perché abbiamo. Ma penso che le abbiano tolte dalle oggetti, cucine. Anche le pentole, anche il fatto che quando. Le hanno tolte, spegni, penso, per questa ragione, che la gente si faceva male, sì. Ma quando spegni la piastra, resta ancora calda per un po', per cui tu scoli la pasta, rimetti la pentola sulla piastra che è ancora calda e quella va avanti. Magari la utilizzi come piano d'appoggio perché la cucina non è molto grande, senza ricordarti che è ancora calda, per cui abbiamo bruciato biberon del bambino, abbiamo bruciato pentole, abbiamo rischiato di mettere noi anche il nostro figlio più volte la mano. Quindi attenzione alle piastre elettriche dei fornelli. Sì. Questo. Va bene, l'ultimo incidente. Nicola, cosa le è successo? C'ho un minuto. Buongiorno, Nicoletti, sarò velocissimo perché mi vergogno un po' a raccontare. No, bisogna dire le cose così almeno la gente impara che non lo fa più. Molti anni fa, giovane studente universitario, ero andato a vivere da solo e mi sentivo completamente autonomo, se non che mi sentivo anche gran cuoco, misi una bella pentola a pressione per preparare un bel minestrone e poi andai a comprare delle cose che mi ero dimenticato di acquistare. Naturalmente ho incontrato degli amici, mi sono messo a parlare con loro, è passata una buona mezz'ora, a un certo punto un boato terrificante mi ha fatto capire che la pentola a pressione era scoppiata. Non aveva controllato la valvola di... No, erano i vecchi modelli, parlo di molti anni fa. Allora, comprate ventola a pressione di ultimo modello perché le vecchie generazioni si trasformano in bombe esplosive in casa. Avete visto? Ce n'era ragione di ragionare oggi. Potrei continuare ancora per settimane. Ci sarebbero persone che racconterebbero gli incidenti domestici. La prima causa di malessere siamo noi stessi. Alla prossima.